Tu sei piccola e sincera, non di certo ho paura. Che un giorno io ti lascio, non è vero, fiore mio? Ha ragione tua mamma, sei ancora una bambina e vi ti chiedo, ma per ti fare je t'aime troppo, ma per ti fare io ti je suis encore trop jeune pour toi. Tant de choses nous séparent. Et pourtant, au plus profond de moi, je sens que ma vie t'appartient. Oh mon amour, j'ai si peur que tu t'en ailles. Ne me quitte jamais. Comment pourrais-je vivre sans toi? Era un giorno di primavera. Eravamo felici, era il tuo primo incontro.